Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È possibile menare una professoressa? Non si dovrebbe, però non sono in grado di giudicare. Non so cosa sia successo. Non lo so, mi hanno detto che è successo che una ragazza era stata bocciata. Penso che siamo arrivati proprio, come si suol dire, alla frutta, una cosa se del anche genere. Gli studenti. Anche gli studenti, anche i genitori, quello che ancora fa più male. Due genitori si sono lamentati per la bocciatura della figlia, quindi hanno reagito in maniera spropositata nei confronti della vicepresa. Ma già ci sia una denuncia? La procura sta andata avanti, in sostanza, perché scatta d'ufficio, 25 giorni di prognosi sono tanti. L'hanno fatto male a... Sì, l'hanno nominata a Tena, proprio detto in gergo cosentino. Genitori che menano gli insegnanti dei figli. Sono situazioni limite, possiamo dare qualsiasi tipo di giustificazione o di contestualizzazione spazio-temporale, però sono episodi che quando accadono ci fanno riflettere su cosa? Su una deriva del costume, su una minore considerazione dell'aspetto, non voglio dire sacrale, ma perlomeno importante della scuola. Dico questo perché l'introduzione che avete sentito appartiene a episodi di qualche tempo fa. Trattammo varie trasmissioni di genitori arrabbiati, di mamme inviperite, di padri maneschi che tornano in classe e chiedono ragione all'insegnante di alcuni comportamenti sui figli, può essere un cattivo voto, una sospensione o il gravissimo reato di aver impedito al figlio la propria naturale espansione attraverso uno smartphone. L'episodio è riaccaduto, è nelle cronache di questa mattina, è accaduto a Cicatena, nel Catanese. In questo caso un docente rimprovera durante la lezione di educazione fisica una sua allieva di scuola media, perché stava ripetutamente, insistentemente parlando al cellulare, dice smetti un attimo. La ragazza per tutta risposta le passa il cellulare, dove il fidanzato, che stava dall'altra parte del telefono, comincia a minacciare l'insegnante. Finita la lezione si presenta il padre della ragazza, che comincia a picchiare l'insegnante con calci e pugni. È finito che l'insegnante è all'ospedale di Acireale e viene medicato. Stanno indagando i carabinieri, non si sa ancora se ci sarà una denuncia, ma è importante far capire che comunque sia, al di là di ogni contesto, al di là di ogni circostanza di aggravante sociale, ancora viene considerato una sorta di, o perlomeno in alcuni casi, di indegno intervento nella vita privata del proprio rampollo il fatto che un insegnante dica di spegnere il cellulare. Come la pensate? Avete episodi simili? Possiamo riportare questo episodio che direte è facilmente successo in un paese della Sicilia dove si sa che è naturalmente tutto quello che si può dire, ma vi risulta anche in altri luoghi d'Italia meno appesantiti dal pregiudizio che accadano cose simili, che accadano visto che molte volte abbiamo messo sotto accusa gli insegnanti, questa è una volta in cui gli insegnanti potrebbero dirla loro, che è così difficile il rapporto didattico nei confronti dei ragazzi perché c'è l'interferenza dei genitori che non ammettono che comunque la lecita, sacrosanta autonomia del ragazzo venga in qualche maniera limitata dall'insegnante, soprattutto in questa loro volontà di essere sempre in contatto con il mondo esterno, qualcosa che appartiene senz'altro alla contemporaneità, da quale non si può naturalmente prendere le distanze, ma bisogna comunque in qualche maniera capire quale deve essere la giusta maniera di un insegnante nel rapportarsi nei confronti dei ragazzi che sono cambiati, stanno cambiando rispetto a tutti i programmi, a tutte le premesse, a tutti gli ammaestramenti a cui è passato un insegnante. Ieri abbiamo fatto una trasmissione su una nuova maniera di concepire il diritto dell'accesso alla rete, ha chiamato un insegnante dicendo: ma io trovo che il mio vero problema sia che i ragazzi comunque ci sfuggono di mano perché appartengono a un'altra realtà che noi ancora non controlliamo. 800 24 00 24, avete episodi anche voi di genitori che non tollerano che l'insegnante limiti l'uso degli strumenti di relazione dei propri ragazzi? Ma prego, convinca mia figlia a togliersi questa riga che ha in testa, che mi va in giro poi con dei tacchi così alti. Come va, ragazzo? Male, molto male. L'aria cognitiva lascia molto a desiderare, signore, molto. Sua figlia è forte, sa tutto sui computer. Ma è l'unico che è stato in grado di farmi capire cos'è un bit e cos'è un byte. Dimmi, cosa sapete? Quanto gli ho messo? 4. Io insegno diritto, mica informatica. Comunque, insomma, il 4 commesso potrebbe anche diventare un 5 in gennaio. Però, insomma, il ragazzo ha delle lacune culturali veramente grosse. Però non è colpa sua. La colpa è delle condizioni in cui siamo costretti a lavorare. Pensi che per certa gente bocciare gli ignoranti è un crimine efferato? Ebbene, io sono un vero criminale. Oltretutto milioni di lavoratori... 800 24 00 24. Tiriamo fuori gli stracci nascosti. Genitori, cosa pensate degli insegnanti? Insegnanti, diteci francamente, cosa pensate dei genitori che valutate non soltanto nei momenti ufficiali del colloquio, ma che vedete rappresentati nel loro più naturale esito, che sono i figli? Quale impronta vedete mediamente dei genitori dei vostri alunni quando trattate con i ragazzi in classe? Genitori, come vedete gli insegnanti dei vostri ragazzi? Come persone che non li capiscono? Persone che li prendono di mira particolarmente? Persone che sono appesantite da loro personali frustrazioni e poi se la prendono con i vostri ragazzi? 800 24 00 24. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Allora, a mio avviso i motivi possono essere due. Dell'episodio che abbiamo citato, lei dice? Ma in generale nel rapporto tra scuola, studenti e genitori. C'è un rapporto comunque da ridefinire, vediamo lei qual è il suo punto di vista. Da un lato c'è i genitori che mancano totalmente di credito nei confronti dei figli e cercano complicità nel trovare nei confronti degli insegnanti il capro espiatorio, schierandosi con i figli contro la scuola. Dall'altro la scuola lì. Cioè cercano complicità nei figli per riacquisire, diciamo, credibilità e fiducia e se la prendono con la scuola. Mettendosi contro la scuola. Dall'altro però la scuola ci mette del suo, perché gli insegnanti totalmente senza credito, perché veicoli di un sapere che gli studenti credono già di sapere perché ampiamente... abbeverati di informazioni. Lei parla, scusi, parla da insegnante o da genitore? Tanto per capire. Parlo da genitore. Genitore, lei è un genitore. Quindi sono, diciamo, sono due, una scuola che ancora non si è adeguata al tempo che è cambiato, quindi insegnanti formati in maniera antiquata che ancora vedono quello che per i ragazzi è strumento di espansione come strumento di limitazione della loro autorità. E questo è il primo punto. Ma anche c'è da dire che la scuola non fa altro che ripetere il già detto e che di cui l'informazione fagocita tutti indistintamente. Gli studenti non hanno l'atteggiamento di chi vuole apprendere, perché hanno già appreso fuori dalla scuola. O perlomeno hanno strumenti di apprensione molto più glamour, più divertenti, appunto, quindi considerano appunto, che appunto, la scuola appunto, in fondo è una noia. Appunto. Però non dimentichi che siamo partiti da un episodio in cui un genitore si è sentito in diritto di prendere a pugno un insegnante solo perché ha detto alla ragazza durante la lezione non usare il cellulare. Quindi esiste una definizione, al di là dell'ignoranza di chi ha compiuto il gesto, dell'atto violento e incivile. Comunque esiste un terreno ambiguo di non perfetto chiarimento di dove inizino e dove finiscono i confini della scuola e il diritto di esercitare l'autorità dell'insegnante. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Senta, ho 84 anni. Quando ero giovane mi guardavo bene di dirgli a casa ai miei genitori: il professore mi ha tirato un orecchio, perché a casa me li tiravano l'altro orecchio. Ti do la giunta, come dicevano a me. Quindi penso che i ragazzi sono maleducati a casa. Quindi lei è un problema, diciamo, dal suo osservatorio vetusto. Lei dice: una volta la scuola era la scuola, l'autorità era l'autorità, era indiscutibile quello che faceva l'insegnante, anche se lei tirava le orecchie, a me davano anche le botte con la canna in testa, ma erano cose che accadevano. Allora la correzione fisica era contemplata come uno strumento possibile, anche se non ufficializzato. Dice: oggi non manca nemmeno, manca totalmente anche quello che è il basico rapporto di attestazione di diritto di esercitare comunque un'autorità che si basa sull'autorevolezza data dal ruolo. Non ci sono più ruoli. Enrico. Tutti uomini chiamano, che vorrei chiamasse anche una donna, se possibile. Enrico, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, volevo semplicemente fare un intervento in merito al rapporto che c'è tra gli insegnanti e gli alunni. Parla la genitore o parla da insegnante? Questo no, domani. Io non parlo né da genitore, ma parlo da compagno di una professoressa. Ah, quindi lei è una compagna, lei vede, ogni sera sente il carico di tensioni e di frustrazioni che le porta a casa. Quali sono i punti chiave allora? I punti chiave è che noto nei genitori una scarsa propensione a vedere il professore come una figura di riferimento, anzi, tutt'altro, in certi casi è l'antagonista, quello che insegna, che cercano di far capire al figlio che l'insegnante è una persona da non tenere in considerazione, perché comunque sicuramente alla fine dell'anno vengono promossi. Ecco, questo è il segnale che danno i genitori. Cioè, uno si domanda cosa li mandino a fare a scuola a questo punto, per non averli la mattina fra i piedi, perché sennò non ci sarebbe un razionale di mandarli a scuola se già in sé... C'è una sfiducia radicale per la scuola, ma lo dico anche io, sono stato genitore con ragazzi a scuola, oggi non più, però so esattamente cosa significa. Quindi nasce da questo. E dal punto di vista degli insegnanti, quali sono i fardelli che sente più la sua compagna dal punto di vista dell'istituzione che lei rappresenta? Beh, tenga a considerazione che la scuola non finisce all'una del pomeriggio, come ad esempio a quest'ora che sta venendo a casa, ma continua nel pomeriggio con una serie di... diciamo telefonate, cercare di far capire al genitore che ci sono delle situazioni ma quindi continua un filo di rapporto con i genitori anche nella vita privata, perché uscita dalla scuola ha la sua vita per forza, ma solo che queste situazioni vengono gestite nel pomeriggio. Cioè pomeriggio c'è la mamma che chiama, che si lamenta, quell'altra che chiede aiuto. Vabbè, ma cioè, apre uno sportello di aiuto familiare a questo punto, fa un secondo lavoro, perché non credo che... No, ci sono delle situazioni, mi scusi se la disturbo, sì. Ci sono delle situazioni veramente, veramente gravi. Un esempio, sì. Un esempio solo, prima della pausa. Un esempio? Sì. Ci sono delle famiglie che non hanno i soldi per dare, per poter prendere il treno e andare a scuola. Beh, ecco, allora mi parlo di situazioni concrete e reali qua, non sono... e lucubrazioni mentali sono problemi, gestisce sede che è un territorio particolarmente difficile o un momento particolarmente difficile, quindi è un insegnante ammirevole che si fa anche carico di tutta una serie di questioni, di tensioni che non le spetterebbe in maniera così diretta. La ringrazio, ci fermiamo un istante per il traffico, poi riprendiamo. Va ristabilito il rispetto dei ruoli, i docenti devono essere rispettati per il lavoro che fanno, i genitori devono avere il loro ruolo nei confronti dei propri figli, se genitori e docenti operano insieme e si rispettano l'un con l'altro, credo che possiamo fare grandi passi avanti. Noi genitori dobbiamo avere fiducia della scuola, ma la scuola deve avere certamente fiducia dei genitori. Non possiamo solo esclusivamente individuare le difficoltà, le crisi della famiglia, le crisi della scuola, sono luoghi comuni troppo utilizzati. Pensiamo invece anche alla risorsa della famiglia, pensiamo a quanti genitori sono disponibili a entrare. Sono felice scuola. Nel vedere che un pubblico composto di un numero importante di maestrine della penna rossa, perché in tanti hanno fatto la fatica di prendere il loro telefono, digitare il numero del nostro SMS e rimproverarmi che ho detto strumenti di apprensione invece che strumenti di apprendimento. È sicuramente un lapsus, ma mi sembra che i due domini vadano coincidendo questa mattina, parlando di un telefono e uno smartphone usato impropriamente in classe. È strumento di apprendimento per l'alunno, è strumento di apprensione per l'insegnante, che vede in maniera così poco corretta interferenza alla propria lezione. Comunque va bene, sono contento, però anche telefonate per dire il vostro punto di vista su quello che sto dicendo. Una riflessione mi viene di fare, suggerita da Fabrizio Intonti, è proprio questa: nell'esperienza che ha lui di ragazzi che insegna fotografia in un istituto superiore, è quello che molte volte l'insegnante viene visto come uno sfigato perché guadagna uno stipendio tutto sommato limitato, non eccelso, non è un vincente, quindi perché dovrei ascoltare un vincente? E probabilmente una persona che non è un vincente, che non è un calciatore, un attore, un grande professionista, e quindi molte volte anche i genitori dal loro rango di persone che si misurano ogni giorno in ragione della propria capacità d'acquisto, vedono l'insegnante come un poveretto, alla fine non danno a lui la dignità del ruolo che meriterebbe. Daniele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sono Daniele dall'Aquila. Sì. Niente, io volevo portare due piccoli esempi. Prima di tutto, secondo me, il primo nemico dei bambini, per quanto, bambini, ragazzi, per quanto riguarda l'istruzione, sono i genitori, che hanno troppa ingerenza nella vita scolastica, ma non nella vita scolastica, non nei compiti, nello studio. Le porto un esempio: mia figlia ha 8 anni, frequenta la terza elementare, i genitori hanno avuto da ridire anche sui posti assegnati dalla maestra in classe, per cui quella poveretta ogni settimana doveva fare il turnover dei posti nella classe. Beh, diciamo che è un bel compito mettere d'accordo tutte le amichette, gli amici, quelli che litigano, quella che vuole stare vicino perché si conoscono le famiglie. Occorrerebbe un'equazione, occorrerebbe un calcolatore per trovare la giusta equazione della geografia scolastica. Poi? Mentre volevo dire che, tra virgolette, le ingiustizie in ambito scolastico ci sono sempre state. Io le porto il mio esempio, io sono sempre andato bene a scuola. Ma anche in ambito esistenziale, se per questo. Sì, lei penso che sappia molto più di me. Io avevo un professore di disegno tecnico a cui non ero simpatico. Quando uscirono le prime stampanti laser, il più bravo della classe fece un disegno tecnico. Tutta la classe, 18 persone, fece la fotocopia di questo disegno tecnico. A lui mise 8, tutti quanti 7. A me, per lo sforzo, mi mise 6 meno meno. Per cui le ingiustizie si sono sempre che erano fotocopiate, praticamente erano tutte lo stesso disegno. Sì, erano tutti lo stesso disegno, per cui al di là del... E quindi è stato un rivelatore scientifico dell'indice di parziale giudizio del suo insegnante. Questo è interessante. Rosario, buongiorno. Rosario non c'è. Marco. Buongiorno, dottor Nicoletti. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Porto una piccola esperienza personale. Io ho due figli alle medie, uno è uscito quest'anno a fare superiori, e nelle assemblee d'istituto mi trovo sempre lo stesso problema, questi ragazzi che parlano continuamente al cellulare. Allora io ho proposto, come si sa ormai da tempo, una piccola soluzione tecnica, no? Basta mettere quei piccoli ripetitori che impediscono ai cellulari di funzionare. Oggi in tutte le sale riunioni delle aziende, esatto, nessuno vuole essere interferito. Cioè, lei anticipa proprio quello che volevo dire io e risolverebbero il problema. È un dispositivo di jamming, è un attrezzino, costa anche poco, si mette lì e non funziona il cellulare. Perché non lo fanno? La risposta anche dei professori è stata ma dopo noi come facciamo pure a telefonare? Perché allora non può stare il professore 45 minuti senza cellulare. Esatto. Quindi io questo lo dico non in polemica con i professori assolutamente, ma perché non è il professore per me come individuo che si deve incaricare di rimproverare l'alunno per il cellulare come per la condotta, ma è l'istituzione scuola che mette una legge, come lei ha detto benissimo, che c'è in qualsiasi industria, in qualsiasi azienda, che grazie a questo piccolo ripetitore non è possibile usare i cellulari a scuola. Per le comunicazioni, come facevo io 20 anni fa, si scende in segreteria, si prende il telefono di linea e si chiama a casa. Anche perché, mi scusi, ma se lei va a fare un concorso, nella stanza del concorso penso che ci sia. Ci sono, questi dispositivi ormai sono molto frequenti, in molti luoghi istituzionali ci sono. Passando per Roma in molte strade improvvisamente si spegne il cellulare, perché ovunque ci sia un ministero, un luogo sensibile, è chiaro che intorno non si possa telefonare. Chiaro. Ma questo per dare un segnale che nell'istituzione scuola esistono delle regole che tutti rispettano a prescindere dal professore o dall'alunno. O dal preside. Quindi diciamo c'è sempre dietro un discorso molto più profondo che il semplice problema tecnologico. Oggi c'è la tecnologia, non è la tecnologia, è la non capacità di gestire la tecnologia, perché un insegnante potrebbe benissimo, se fosse interessante quello che dice, impedire che i ragazzi in quel momento siano presi dal loro telefono, potrebbe avere modo, maniera e strumenti anche verbali per inchiodare la persona che lo usa invece che ascoltarlo, perché questa si vergogni di continuare a farlo. Lo dico anche perché mi è capitato a me di fare lezioni anche nelle università e c'è maniera e modo di far sì che questo non accada. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Sarò brevissimo. Direi che sono assolutamente d'accordo con, in linea generale, con chi ritiene che a scuola i cellulari non debbano esistere. Sì, salvo che non bisogna prendere a pugni il professore, comunque. Sì, che non bisogna prendere a pugni il professore, diciamo, perché da questo nasce. Quel povero professore di Aci Castello, dov'è? Aci Catena, che sta adesso al pronto soccorso. Perché so che la sua trasmissione sta per finire. Sì. Le ho vissuto con mia figlia che era alle superiori, proprio un episodio del genere. C'era una riunione di istituto, c'era un padre che insisteva sul fatto che i ragazzi dovevano avere questa libertà di, durante le lezioni, di parlare al cellulare. Io sono andato fuori di testa, ovviamente, perché ho detto, cioè, a parte che io considero il cellulare, da quando c'è il cellulare, i ragazzi, soprattutto i ragazzi, perché ne fanno un uso veramente smodato. E... Vabbè, lasci perdere questo, restiamo all'argomento. Quindi, diciamo, si scontrava con il punto di vista di questo dirigente che diceva che sono liberi di fare quello che vogliono anche durante l'ora lezione. Sì, potrebbe funzionare se la lezione fosse qualcosa di diverso, la lezione tradizionalmente intesa, e ci fosse un dialogo come noi facciamo quando parliamo con delle persone, che magari ognuno ogni tanto telefona ma rientra velocemente nel filo del discorso. Ma è complicato. A domani.